andare avanti, via. E vabbè, diciamo che loro lì ci lavorano, comunque il canale non è di loro, e noi paghiamo per 40 canali, non per 39 canali. E vabbè, ma il discorso era un altro invece, a un certo punto è diventato un altro, è diventato che poi in linea di massima molti camionisti gli partono con le parolacce, capito, Rutti, perché sono loro che mettono portante molte volte, più delle volte, proprio lo fanno apposta, e incolpano gli altri che stanno ascoltando, che si beccano la portante, incolpano gli altri che poi non sanno che possono essere all'ascolto gli altri, e loro incolpando. Se Massi mi accusano sempre, a me, che sono io. Sto dicendo che è allucinante. Io dico, ma quando mai cazzo non si rendono conto di quello che dicono? Se la persona non c'è, non è lì, non ti sta rompendo i coglioni, ti sta cercando, non ti sta cagando le palle, lascialo stare in faccia. Boh, va tra pesca, cazzo, non lo so. Non li ho capiti, e molto probabilmente non li capirò mai, però sinceramente parlando trovo che siano furettissimi, furettissimi. Sono giù a gente esaurita. Sì, sì, quanta gente, gente che ha la capucchia, che gli freme, ridare, boh, ti dico, a Gabbo adesso. Ma il te fa attendere giù, forma attende? No, aggiornandolo sta, che non l'aveva mai aggiornato, e tutto un trippamento abbiamo fatto, no? Tutto. Praticamente ho catturato una rete wireless, le ho fatto una tromba direzionale lì per una rete wireless con una chiave, ha beccato e adesso è connesso gratis. Si può craccare il modem, sì. Dipende, allora, per poter campionare le reti degli altri esiste un programma Sniffer, no? Praticamente fai l'estrazione dei pacchetti e lì trovi pure le chiavi, ma tutte le chiavi dei PC degli altri, però è un casino, devi avere un PC a sé, perché il PC che tu utilizzi per fare quel lavoro lì lo vede come un virus quel programma, ma una volta campionate le chiavi poi ne fai di tutti i colori. Però, e cosa ho fatto qua? Io ho la mia rete fissa, no? La lice adesso, ma ne ho combinate in tutte le maniere, mi ricordo ancora, entravo nella configurazione del modem di questo, no? Di questa Alice. Alice, proprio Alice, entravo dentro. Allora, avevo trovato la pagina del router, sì, no? Perché una volta che è accesso è un casino. Ma mi divertivo un sacco, io sganciavo continuamente il telefono. Tu fammi, scusa la mia ignoranza, ma se uno non ha connessione proprio 000, come cazzo fa a craccarli? Come fai? Puoi capire, se uno non ha connessione come fa a craccare, cioè a cercare la password, ecco. Allora, ci sono quelle aperte che entri appena che connetti, non c'è problema, ti associ e buh, però devi avere una chiavetta ottima. Se invece vuoi craccare una lice, allora esiste un programma che si chiama Sniffer, però non ti dico dove è messo, perché non voglio dirla, cioè non voglio di fare casino. Quindi, con questo programma tu campioni il traffico, perché le chiavi le vedi, anche chiuse le vedi, no? Oppure lo vedi in intabulato. Specialmente che le chiavi con il software, escono col software. Le vedi su un tabulato, tutte le reti, ne scegli una. Da quella lì campioni i pacchetti, bene. Pacchetti sono comprese anche, no? Informazioni, tra cui le chiavi di sistema. È una cosa molto particolare. Però devi avere un PC a sé per poter caricare quel programma, altrimenti te lo vede come un virus. Ecco dove è il casino. Però se lo sai usare, voglia. A voglia che ne fa? È un macellaio quel programma, io l'ho definito il grande macellaio, infatti ha un nome particolare. Con quello campioni pacchetti degli altri, entri dentro, una volta che sei dentro, tu da lì puoi vedere la pagina di quel router e puoi andare a modificare le impostazioni, però l'impostazione puoi spostare tipo il telefono, puoi far sconnettere la rete wifi, ma poi chiaramente il proprietario la rimette a posto, non è niente di grave, giusto per fare qualche scherzetto. E se vuoi ti puoi connettere tranquillamente, comunque sia. Perché ci sono tante persone che nascondono il si chiama il wireless, diciamo, dai. Nascondono in che senso? Un tasto appoggi, lo schiacci e non esiste più. Cioè ha la connessione, sì, usa il tavolo di rete, no? Wireless, chi ha il computer fisso, ecco, lo usa col cavo di rete. Wireless, schiaccia un tasto e lo nasconde. Non esiste, non come se non ce l'abbia, dai. No, aspetta, allora. Tu stai dicendo una cosa del tipo, io non voglio ricevere quel canale, non lo ricevo in un ricevitore che sarebbe il PC in full duplex, ovviamente. Però, parlando del router, se vuoi io la wifi dal software, dal router di casa, gli tolgo la wifi e vado col cavo. Tu stai dicendo questo, giusto? Scappa. Perfetto. Quindi, se qualcuno invece utilizza il PC portatile perché ha una casa di 250-300 metri quadri, 3 PC e uno per ogni ragazzo, lo wifi è acceso, giusto? Via, certo. Allora, io mi aggancio. Siccome c'è la chiave che in linea di massima è web, PSK, eccetera, eccetera, non c'entri, perché non c'entri? E allora si utilizza Sniffer. Sniffer è un programma chiaramente hacker, che bisogna conoscere bene, utilizzare molto tempo prima, che devi fare, diciamo così, il crack alla connessione, crack. Veramente entri con la sua password, tu fai il rilevamento della sua password, e molto semplicemente metti quella nella chiave di rete e stai entrando. Mi hanno detto che con Tiscali non ce la fai. Come? Mi hanno detto che con Tiscali non ce la fai. Sì, questo lo dicono loro. Questo lo dicono loro. Capito? E invece proprio con una Tiscali che navigavo. Proprio con quella. Pensa a due. No, dico che è più difficile, bro. Cacca, non è vero. È questione di impegno. Questione di impegno. Oggi esiste software allucinante. Poi a parte, vabbè, quello che uno può fare in Boolean, la programmazione, quello che si crea driver, io ad esempio certi driver me li creo, faccio delle interfacce e gli scrivo il programma per far funzionare certi processori, tipo, che ne so, accendimi quel macchinario, accendimi quell'altro, per scattare quel relè. Il software si può scrivere, capito, tranquillamente. Però, a prescindere da quello, se io prendo la tua chiave di quel modem, è chiaro che entro. Tu la chiave come la nascondi? Una volta che l'hai inserita è da qualche parte, no? Giusto? Certo. Allora io entro e frugo. Io intanto campiono tutti i dati, poi ne parliamo. Tutto lì. È quello che succede. Nel campionamento fai il rilevamento della chiave altrui. Cosa delinquente, cosa che non si dovrebbe fare, ma per uno che deve avere esperienza gli serve come esperienza. Effettivamente fu una prova che io feci con questo amico mio veterinario, con grande insistenza diceva che non era possibile, lui e il figlio, due testardoni, uno che ha un Macintosh e lui aveva l'altro che lavorava con Windows, e niente, addirittura sono andato a campionare proprio il Macintosh e il gusto era lì. È tremendo, questo programma che ti dico qui è tremendo. Rileva tutto, è questione di impegno. Vabbè, di impegno anche di saperlo usare anche. Beh, tutto in inglese, il problema sarebbe la traduzione. Tutto in inglese, quanto esiste? Io non lo parlerò bene perché non ho la pronuncia giusta, però faccio le traduzioni da manuale, quindi non ho problemi. La traduzione ok. Ecco, infatti ne avevo già sentito parlare. Un casino, ma io già ne ho retti qua vicino, ma tutte protette, Alice, poi ho Fastweb. Sì, puoi entrarci tranquillamente. Tieni presente una cosa però, Tieni presente una cosa. Quando tu entri in una rete Alice, vedono il nome del tuo PC, sanno che tu sei collegato. Io per vedere se c'è qualcuno, vado nella pagina del router, me ne accorgo. L'unica cosa che puoi fare è mettere, ad esempio, computer tipo 00000. Però tu sei connesso, un utente intelligente, va sulla pagina del router e ti trova. Capisci? Tutto lì. Siccome la rete è protetta e tu sei entrato dentro, rischi una denuncia. Basta. Ma ai fini di una prova lo potresti fare una volta. Ma non è una cosa bella, eh? Ah, ma io ce la mia rete, me la frega un cacchio, a me. Non mi interessa più farlo. No, giusto per... se era vero che si poteva fare tutto qua. Io ce la mia ritengo. Tutto si può fare, tutto. Bisogna vedere quanto tempo ci vuole, che tipo di programma utilizzare, che tipo di PC utilizzare, alla fine è così. È tutto un sistema, una volta che ti abitui poi lo fai così, come se niente fosse. È questione di avere molta pazienza a campionare gli atti. E poi trovavo posta elettronica, chiavi di posta elettronica, le chiavi addirittura della posta, tutto. forza, per forza. Basta che faccio una transazione e beccato. È beccato, tutto. Sono dei programmi tremendi, ecco perché in internet privacy non ce n'è. Capisci? Sotto quell'aspetto, però vabbè, ormai stanno anche perfezionando il tipo di chiavi, stanno mettendo doppia capitazione, sta diventando sempre più difficile. Sì, e bisogna essere anche un po' intelligenti su tutto, perché sarà un programma molto molto difficile da usare. Poi ho detto in inglese anche, poi bisogna tradurre il tutto. Ripeto, non mi interessa assolutamente, era solo una domanda che, cioè, una domanda e tu mi hai risposto tutto qua. Io ho la mia, pago e sono più tranquillo. Sì, ma non conviene, per mille motivi. Faccio delle transazioni qua dentro, quindi Dio me ne scampi liberi, no, assolutamente. Assolutamente, no, ma manco a... per un cavolo, ecco. E poi ci danno anche il telefono, io ho il telefono collegato e le chiamate sono gratis, 0,25 allo scatto e poi stai lì tutto il giorno. Dottore? E quant'era? Quant'era? È commesso? Cosa si vede? Cavare su download intelligente, quando è possibile lui ha compreso. La porta in automatico in modo che si riuscirà adesso. Preso. Prova a avviare Explorer. Grazie a Esplore. Ando. E ero in nuovo, sempre in nuovo. E curiosità, la bestia da la pagina di Google. Mentre? E non serve là. Lasciala andare, ok? E già lì fai già. Prova? E serve già il cappuccio, serve. Lascialo barricare ancora. Riprendilo. E già, questa passa io riprendo. È già a mezzanotte, non 4, dai. Ah, ci farò un salto, là 28, com'è la frequenza se non mi ricordo. E te già passo a fare due chiacchiere con voi. No, non avanti siamo a 27635, non c'avevo più lì, 27635? 635, dove siamo sempre stati. 7635. Dai, Gio, guarda. Cioè, se te lì, ti ho chiesto di te, non ti avevo più sentito. Mi chiedo a te se ti cobale. Ho più sentito Antonello, diti. E già siamo tutti lì al lavoro, è un casino. Adesso è dura, quindi bisogna prima passare la pagnotta e poi si pensa al ferro vecchio. Beh, già c'entra, la sera, da una mezz'oretta, un'oretta si può anche fare. E certo, prima bisogna pensare alla pagnotta, ci mancherebbe. Presso. E vabbè, aspetta, e i tasi? Fatti suoi con un vatto, ecco perché non c'entra Antonello, stava dicendo lui. Capito che Antonello fatti suoi con un VAT per quello che non si è entrato più in radio, pure un digitale terrestre. Ma lì è tutto un casino, tutte antenne fracide, porcherie. Io qua ce ne sono altre messe male, eppure non si è più lamentato nessuno. E beh, col Kingwood lì non ne fai per niente, come l'acchino, capito, non ne faccio. E quindi, oh, che tutta mondezza, ma molte volte già le mettono a posto e poi si dimenticano. Ma se fanno un'altra di balle, cazzo, sono pesanti, meglio internet, solo per quel motivo meglio internet. Però lì non le fai TV, Assolutamente, non so, scittetti, non c'è bisogno di fare l'antenna, non ti girano i santissimi nessuno, spendi anche di meno alla fine, perché poi con queste radioamatoriali sei sempre lì, compra questo, metti quello, fai il microfono, ma è quello che tu sei un tonazzo. E invece io, sai cosa faccio, mio amato? Prendo e mi compro un cane di quei bassotti lunghi, no, long vehicle, lo faccio pisciare l'apparato. Capito? Perché vuole pisciato? Ma vuole pisciato tutto. Perché non serve a niente, né gamma amatoriale, né gamma CB, tutto via, pussa via, le porcherie e tutte, i casi guardati. Sarà utile la radio, ma avrà i suoi fini di utilità, no? Non certamente a stare lì a darsi numeri. Beh, certo. No, vabbè, dipende anche da la persona che trovi, da chi ti trovi, ecco. Una persona giusta va bene. Poi se ci sono i coglioncini in mezzo, come la 27, allora, ma io ho notato anche molte volte, no? Siccome ho la licenza d'ascolto, ascolto anche Link Nazionale, no? schifo, schifo, rutti, portanti, ci lamentano sempre, ecco. Stai tranquillo che prima o poi ti troviamo. Ma che gusto ci prende a mettere portante? Ma non va a fare il culo, vai. Vuol dire che gente ha tempo da perdere. Sai, tutto il giorno mettono portante. Vedi, quando uno sente quelle cose sparisce, io non manco, io guarda, no, né 144, né 500, né 700, né 1000, né un cazzo. Tutti buttati nella mondezza. Non ho mai avuto, qualche cosa che ho avuto così era solo passaggio, proprio saggio. No, ma non ne voglio neanche sentire, no. Assolutamente, o questo mi perché siete voi amici entro così, però non c'è, prima di tutto non c'è passione, essere molto sincero, poi la radio non c'entra niente. È un po' come dire, in un condominio non ci si può vivere, ma non sono i muri che fanno male, sono le persone incivili che sia in condominio sia in casa singola sono incivili, e così sono alla radio. Vabbè, comunque, non è così, ma io faccio ascolto, non è che... Poi se mi piace di quello che stiamo parlando, bene, se no neanche ascolto, lo tengo spento, non frega niente. Non c'è, c'era la passione prima, adesso non più, mi stavo anche rompendo il baracchino, non mi attira più. Per semplice motivo che ci sono sempre persone ignoranti, capito? Stanno lì a perdere tempo, a rompersi le balle. Tutto qua. Invece quando trovi le persone giuste, fai due chiacchiere, le più da meno, basta, va bene così. Alla fine è così, però basta, no? Basta, io, il mio blog, gli amici, tutti quanti, no? Gente che ragiona con la testa, non posso stare lì a perdere il tempo. E quando espongo una teoria, espongo un'apparecchiatura che mostro, vedono, cioè è tutto un giro di cose, anche aiutano anche a livello di lavoro, quindi già le cose cambiano, è molto più seria la situazione, capito? E oltretutto poi viene a conoscenza anche di persone che hanno un altro genere di conoscenze e altre conoscenze, e quindi sei sempre lì e non ti fai il sangue amaro, assolutamente, capisci? Non è che lì ti mettono portate e mettono il rutto, no? Vabbè, comunque si ritrovano lì con le frequenze radiomatoriali e sono cacchi amari. Ma già stai lì a perdere tempo, a lottare. Io mi ricordo un paio d'anni fa, quando era 300, com'era? Non mi ricordo, comunque 432, adesso non mi ricordo l'altro, 525 mi sembra, no? Non mi ricordo, vabbè, una cosa allucinante. Io facevo per ascoltare Rutti a tutta andare, musica, oppure registravo a te e mandavo la tua registrazione, di quello che parlavi, ecco. Bravi, un bel lavoro. Veramente un bel lavoro. Ah, eccellenti. Tutta gente seria e per bene. Mondezza, praticamente. Uno quando vede così, che vuoi che ci faccia? Cioè niente, no? Ma non è più neanche un gusto, no? È utilizzato per schernire gli altri, per fare bordello. Io quando vedo quelle cose, mamma mia, ma già lo odio di per sé la radio, perché il fatto che di fare un collegamento su tutti quei rumori lì mi urta maledettamente l'anima, mi saltano i nervi, poi scusate un pochino se sento uno che urta, che lì no, un conto è se devi ridere, che devi scherzare, giocare l'aria con gli amici, che insomma c'è un po' di armonia, un conto è che entra uno che lo fa seriamente, che fa l'idiota. E non è così, gioco, lo fanno e come, vabbè, comunque non so se tu hai qualche ricevitore per ascoltare lì la, come si chiama, la Link Nazionale. Intanto già si fanno sentire quelli che rompono le palle, però un giorno li trovano, passano casini, Ma guarda, io non sento parlare, non c'entro neanche, ho possibilità di ascoltare da zero sino a 5000. Posso ascoltare anche i radar, da giù a su posso ascoltare tutte le frequenze che fa terrestri, non mi interessano, non c'è in dubbio, ma non mi permetto neanche di andare in... ne ho sentito parlare, mi ha dato fastidio solo sentirne parlare, figurati un pochino invece vado lì. Sì, perché poi quando si stufano, non avendo a che fare, perché quelli non sono appassionati, quelli sono dei grandi rompi coglioni. Io ad esempio mi conosco che non sono appassionato, ecco, non ci vado. Forse magari è colpa di questa gente qua che non ci vado, però intanto io mi conosco e non ci vado, perché so che non ci faccio niente lì, non sono più consapevole. Invece ci sono questi idiotti che prendono, stanno lì dalla mattina alla sera, magari sono anche radioamatori, tentati forse, punto di domanda, e stanno lì a rompere i coglioni a chi veramente ha intenzione di chiacchierare, gli stessi radioamatori. Così non va, poi ci saranno i pirati, ci saranno gli imbecilli, sicuramente. Sarà tutto un mix, via. Ah, bello, bello, fa un... No. Beh, sì, magari poi a secondo, magari non gli piace il discorso, allora stanno lì a... capito, a rompergli le balle, ecco. Ma è importante, musica, ruti qua, ruti là. Ma non è... è gente che, boh, non... invece non ha niente da che fare, alla spalliera non prende le balde. Ma io spero che prima o poi lo trovo, quello lì. Poi si prende tutta la responsabilità. Non può. E addirittura ho sentito questo qua che non parla molto bene, sai che è malato, non so. Ma cazzo, l'hai incazzato nero, allucinato, tu devi sentire a gridi. Ma è inutile, no? Inutile, no? Che fa, eh? Ma nulla, non serve a nulla. Quello è l'ambiente, non serve a nulla. Perché Marco non lo diceva neanche capito di quello che stava dicendo. E per forza, perché poi quando lo fanno i cacchiare a quel modo, io. E lì ancora ci danno ancora più dentro quando sentono così. Ci prestano più gusto. Per forza, minchia. Dei bastardi, sì, di bottana. Sai della cosa, ma guarda tu cazzo cosa, balamatti cazzo, roba balamatti. Un giorno mi ricordo ancora, allora era, mi ricordo, stavo usando questo apparato, cosa diavolo avevo, comunque mi ricordo in HF sicuramente, ma forse pure in banda amatoriale, non mi guarda, dire la verità, se era 7 mesi, non mi ricordo più, e sento questo qui che abbaiava, e c'era questo qui che gli diceva, io sono Raffaele, e quello abbaiava, ragazzi, cioè, ma sano è uno, e quello, io sono Raffaele, quello, wow, guarda, dovevi sentire, vabbè. Io sono Raffaele, mi sembrava la storia di Beniturgu, e quello che aveva fatto la scoperta dell'alieno, dice, fermi, qui c'è un alieno, no? Abbiamo fatto una scoperta, e Beniturgu da dietro ci spugli, sono Beniturgu e sto cagando. Ogni tanto se ne sente una di qua, per carità. Vabbè, dai. Ciao qua, no, ti saluto, sono qua, che la vecchia mi prende la bastonate. Ci sentiamo in quella, aspetta che me la segno, non me la ricordo, a qualcuno, la prova a prendere. Com'era, 27? 635, lavoravamo sempre, ormai era essere stabile, qualche pallone di quelli, le previsioni del tempo, che mala sorte c'è, cioè in quella frequenza, ma pazienza, lo butteranno giù, no? Se ne cade lo daremo al cane, basta, tu lì. Mi sono segnata, dai. Sono reattore che non lo sento, allora, domani giù va, ciao, buonanotte, buon proseguimento. Ah, no, buon proseguimento, ciao. Buonanotte, avanti tu. E lasciano andare. Certo, non viene lì. E beh, sì, bigherde. E poi non sono entrato dai Gudai, non mi resi nulla, non si è messo la percentuale, quindi sei ancora più nervoso. Beh, normale. Già viga, vieni pure questo. Piano. Siamo di data, ci data su, ok, su fine ti andrà a riavviare, sicuramente. Due. Sul microfono, sempre un ragazzo, questa cosa. Adesso. Vicino sul microfono, ovviamente non la fa culo. Ma dove a dirlo? Come che tu direttamente sa cosa vocale, gai, intendo mezzo, arrazza cosa. Comprei poi farà sapparecchio qua qui, non bisogna comprare nulla, no. Cioè intendo, ma se sa che viene vale giù con il grillo, eh. Ah, c'è un detto. Vai a vendere il Judas, e farà del giorno, non c'è per tenere di gue, no, se no poi ti stufa, compri. La cicca da compri. Liscio che cicca da. No, ho compreso nulla. Poi collegare la luce trasmittente se ha su PC. Preso. Oh, no, dai esterno, no, tocca uno che avete con un'interfaccia. Ma no, no, tu mi dici. È uguale. Comando, no, cambia frequenza, è sul livello, sono poco lì a tutto, no? Ah, c'è tutto. E te, cazzo, devi pilotare. E te, cazzo. Cadi pure con un... perché nel tempo che lo pare per lui gli andrà bene lui, a troppo. Oh, mi ne pega una sega. Controlla a bidere televello. Perché? No. Allora, è nata... E se praticamente questa frontalina, no? De monitor le varie su PC. No. Parecchio normale, più uso, cubo. E boh, una cosa che non sa servire praticamente. Sì, andrà a fare. Tu qua sei avventura, sai, questo software guide, tutto in aria preccato, pungiato, bruciato, acceso, cotto. Non ci fezza. Oh, io, amicizia, bocchelle, ragazzi. Ho fatto l'elettronica, ho fatto impazzire la gente, ragazzi, che ho fatto il pare fuori conca. Quello che non ebbe camicia se la cagò. Quello che non ebbe camicia se la cagò. Infatti, a Savini non si diverse più gaia, se manco muove che si manopola, che troppa roba digitale. Troppo fritta, bidone su una salvina, ragazzi. Bidone su, la cosa digitale su un bidone, se no, di cuore, non c'ho bidone su, sui, no, vabbè, una bagusso, i ragazzi, dai, fuori l'asso, ma pur già che, no? Basta su PC, blu, su una rovè, su mezzo, su, va, questo, e poi hanno la stessa radio e trasmetti, e già la puoi distribuire da ora, te l'ha appanato, è lunghissimo questo passaggio, tranquillo. Lo so, no, esce proprio da, naturalmente non ha una cosa, però non ci ha fatto gusto, poi non lo deve ripetere più, mi. No, non è normale, l'ha fatto in un'ora, e mezza, là, su un mese su tempo. Vabbè, come che è troppo, cioè che era se, non pagare la connessione, ah, era tutto quanto aggiornato, cazzo, no, il pepe. Ah, la buon fine, futtidini, cate, compreso. Facciamo una cosa, fammi cagioso, fai la guida radio. E come cosa fatto ambiente ormai? E c'è problema a bar. Puro. No, ora si sa di andare bene gaia. Bene gaia. E ma come devo fare che mi cocco? Come mollo tutto. No, davanti c'è questo, c'è che lo pone dell'automatico, questo è stato in automatico, compreso. Allora io vedo quello che avvia, se ti chiedo a me, la ricca fai, se le lucchi, poi c'è dinara da bere, che devo prendere il cudetto, che dinara da sospendimento, che non lo spegno. Cioè, per... non fare start, quindi il sudare, non dinara, spegnere il computer per installare aggiornamenti importanti, devo tornare pure questo, ok? Allora spegnere il computer, buono, tu lo fai che lui non lo dice. No problem. Boh, saluto come da, già non ci intendiamo. La prossima, compreso tutto. Ciao. E ok. Fai che ti intende, ciao. Ci intendiamo, ciao. Prova radio.